Per dare la risposta esatta al nostro quiz, sono qui con Chiara Albicocco. Buonasera Chiara. Buonasera Federico. E abbiamo anche già un ospite che ci aiuterà. Sì. Si tratta di? Allora, si tratta di Graziano Martello, che è consigliere dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Intanto buonasera Martello. Buonasera. Buonasera. Allora, lei con la sua professione, che in generale opera su tutto quello che è il patrimonio boschivo, tanto per semplificare, va bene, l'abbiamo scelta perché può essere la persona più adatta per dire se questo nostro quesito, questo nostro quiz sugli alberi di Natale e la risposta giusta che abbiamo individuato è effettivamente corretta, perché ci è sembrato essere un po' più complicata di quanto pensassimo. Noi ci interrogavamo allora, Chiara, su qual è l'origine, esatto, da dove degli vengono alberi di Natale. E la risposta giusta, secondo noi, ci dica se sbagliamo Martello, è quella che abbiamo dato come terza, e cioè che gli alberi di Natale arrivano un po' da attività di manutenzione dei boschi, quindi dalle cime, diciamo così, e in questo caso degli si abeti, tratta esatto di cime tagliate di abeti, e poi invece anche da una produzione specifica di alberi di Natale. Poi con lei vorremmo anche capire un po' di più, ma ci dica intanto se questa terza risposta è corretta. Sì, è corretta, è assolutamente corretta, diciamo, quindi attività di manutenzione e gestione da una parte, che produce del materiale da utilizzare come alberi di Natale, e attività di produzione vera e propria nei vivai specializzati, soprattutto in Toscana, ma comunque non solo. Ecco, ci dà l'idea delle quantità, di una percentuale? Si parla di un 6 milioni di alberi, diciamo, di cui il 90% da vivai, e un 10% da attività, diciamo, di manutenzione forestale. Quindi forse in passato era un po' il contrario, nel senso che venivano utilizzate le cime dopo che l'albero era stato tagliato per altri motivi, e invece adesso è un po' il contrario, insomma, li costruiamo, sì, ad hoc. Sì, sì, diciamo, in passato era molto più, era meno diffuso, e quindi poi c'è stato un momento in cui appunto gli alberi sono stati utilizzati come alberi di plastica o alberi di altra natura, ma si è visto che questo dal punto di vista ecologico, diciamo, un fatto negativo, perché si utilizzano risorse, si genera inquinamento, si generano, certo, e quindi se diciamo gestito bene è molto meglio l'oggetto naturale, insomma. Ecco, senta, ha parlato di 6 milioni di alberi di Natale in una stagione natalizia nel nostro paese? Sì. Allora, quelli che arrivano dalla manutenzione dei boschi sono cime di abeti tagliate. Qualunque tipo di abete, oppure c'è proprio una specie particolare? Ma sono soprattutto abete rosso. Comunque abete rosso, che è una conifera molto diffusa sulle Alpi, parzialmente molto poco sull'Appennino, e dall'abete bianco in misura molto minore, direi, nel rapporto anche qua all'interno del 10%, 9, 1, insomma, okay. 8 e 2. Sì. Senta, grossolanamente, per distinguere quelli che provengono dalle cime, quelli che invece provengono dalle colture, dai vivai, possiamo che individuarli da quelli che hanno le radici e quelli che non le hanno? Oppure si ci guarda sono nel metodi? Vaso, insomma? Da quelle che hanno le radici, no, certo, e da quelle che non le hanno, vabbè, uno potrebbe anche mettere un albero senza radici nel vaso, no. Però quelli che vengono dall'attività di manutenzione delle foreste, ecco, diciamo, hanno una certificazione, hanno un contrassegno che può essere un piombino, un cartellino, diciamo, quindi c'è questa certificazione, diciamo. Un certo dolo allora ci potrebbe essere se un albero che è solo una punta e senza radici viene messo in un vaso, lì si sì, sta, ma direi che è una ma battuta non avviene. Più. Sì, è una battuta, non credo che ci sia nessuno così. Ok, non temiamo. Non temiamo. Vorremmo chiedere un'ultima cosa. Questa roba dell'albero, insomma, di Natale, è una tradizione che, per come poi è gestita adesso, insomma, possiamo pensare che vada bene dal punto di vista ecologico, oppure voi consigliereste, insomma, di cambiare, di non passare usare la plastica? Insomma, ecco, io direi che dal punto di vista della considerazione dell'albero, l'avere, diciamo, al di là di considerazioni che possono essere etiche, di provenienza, no, che sono da tenere in conto, direi che però soprattutto una famiglia, un bambino o dei ragazzini che hanno l'albero, che sanno, che si rendono conto di come devono trattarlo, che studiano come devono, che pensano come viene prodotto, diciamo, è dal punto di vista culturale proprio una crescita, direi, che non è una, e poi una produzione controllata, diciamo, garantisce un utilizzo delle risorse che è in maniera corretto. Va bene. anche dal più corretto, diciamo. Sì, e il fatto che sia vero crea un rapporto con la natura che direi è altrettanto vero e significativo, lei dice. Ecco, c'è gente che per esempio anche con alberi normali, con piante d'appartamento, insomma è vero che magari la pianta può soffrire perché sono piante di alta montagna che stanno bene al freddo, che stanno bene, però diciamo c'è questo rapporto di conoscenza che è importante, perché al giorno d'oggi abbiamo pochi momenti di conoscenza. Contro con la natura, soprattutto nelle città. Senta, per chiudere volevo chiederle un rapidissimo consiglio. Ora che ci apprestiamo a disfare i nostri alberi, che cosa possiamo farne? Insomma, possiamo tenerlo in casa? Ma in casa bisogna stare attenti, perché diciamo quei riscaldamenti che vanno al massimo, soprattutto all'inverno, non è proprio il massimo per le piante. Possiamo tenerli nel giardino, sul terrazzo quando sono piccoli, se no possiamo, magari ci sono dei centri che fanno attività di raccolta e poi di riutilizzo, sempre come albero di Natale, diciamo. Okay, bisogna stare attenti bisogna stare attenti alla reimmissione in natura, tra virgolette, perché ecco, ci possono essere dei problemi di inquinamento genetico, ecco, quindi bisognerebbe stare attenti e rivolgersi magari a degli esperti come sono i nostri colleghi. Certo, sì, però chiaro, al ventesimo Natale c'è una foresta di abete, insomma, sì, cioè con i monolocali tipici metropolitani. Certo. Bisogna giocare sulla dimensione, no? Esatto. Quindi un po' più piccoli. Va bene, grazie mille allora delle informazioni e buone feste. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.